Il giorno più bello. Era arrivato quel giorno. Il giorno tanto atteso. Il giorno che tutti definiscono il più bello. Il giorno indimenticabile. Il giorno del matrimonio di André e Silvia. I due promessi sposi erano ognuno nella propria casa. Silvia con le sue due damigelle e i testimoni. Sembrava ci fosse una gara a chi fosse più emozionato, sempre a controllare e sistemare il vestito, i capelli, il velo, le scarpe, il make-up. Erano tutti elettrici. Il vestito cade bene? Si cade bene. Il velo ha delle pieghe. Sistema le pieghe. Le scarpe queste o queste? Prima queste, poi queste altre. Queste le metto per la cerimonia, queste per il ricevimento. No, meglio il contrario. Queste per la cerimonia e queste per il ricevimento. Il velo lo tieni sempre? Non lo tolgo appena fuori la chiesa, ma credo che forse è meglio che lo tolgo al ricevimento, sì forse è meglio. Il diadema? Si vede? Non è che il velo lo copre? Ma come fa a coprirlo se il diadema è sopra il velo? Le ciglia sono ben incollate? Sono sempre state ben incollate, le ciglia le incolla l'estetista, mica l'elettrauto. Quel giorno sembrava che tutto potesse cedere. Dalle ciglia ai tacchi delle scarpe ai bottoni del vestito. Ma che vi succede quando vi sposate? Vi evaporano tutti i neuroni? Non capite più niente. André invece era più tranquillo perché oltre il bell'abito scuro da cerimonia tagliato e cucito su misura non aveva accessori che potevano preoccuparlo, l'unico vezzo era il nastro di velluto blu a legare la coda che raccoglieva tutte le sue trecce, con grande frustrazione della nonna convinta che in occasione del matrimonio avrebbe deciso di tagliarle dando finalmente un definitivo cambiamento alla sua vita perché con il matrimonio davvero avrebbe messo la testa a posto. André, lo sposo, era tranquillo. Per niente emozionato, Marcelli il suo testimone altro che se era emozionato e osservava con certo stupore André che gli sistemava l'abito e lo scherniva. Sembri un damerino. Che dici si va? Chiese André. Direi che sarebbe ora, rispose Marcel, vorrei ricordarti che oggi è il tuo matrimonio. Allora andiamo a prender moglie, rise André. Marcel per l'occasione era anche l'autista di André, emozionato anche di guidare un'auto che per lui, e per molti da che ne so io. Era irraggiungibile, una Bugatti la vuoi tu Renoire, per tutto il percorso non faceva altro che ripeterlo. Quando mi capita più di mettere le mani su un gioiello del genere. Al contrario André continuava a ripetere che non c'è auto che possa sostituire la bellezza di andare in moto. Il viaggio verso la chiesa fu piacevole, lo dissero anche gli invitati già tutti seduti ai loro posti, arrivati freschi ed entusiasti nella chiesa di Sainte-Croix di Provence, un piccolo comune a 70 km da Parigi, nell'Île-de-France, dove Sylvie aveva una piccola casa nella bella campagna circostante e dove era stato allestito il ricevimento. Stiamo parlando di un matrimonio lusso chic di basso profilo, insomma roba per pochi, infatti gli invitati erano meno di una cinquantina, solo parenti stretti e amici di vecchia data, ma fuori dalla chiesa c'era tutto il paese ad accogliere la sposa. C'erano anche Gabrielle, Manakel e Rockel, erano invisibili, ma vestiti per l'occasione. André arrivò poco prima di Sylvie, il tempo di parcheggiare e aspettarla poco distante dalla chiesa, era stato deciso che avrebbero fatto l'ingresso insieme. Eccoli, disse Manakel. A quelle parole arrivò anche una gatta bianca con gli occhi nocciola che si sedette al lato dell'ingresso. La via, rise Rockel guardando la gatta, ci sei anche tu. Voleva vedere la sposa, rispose Gabrielle. Che bella, esclamò Manakel guardando Sylvie. André e Sylvie arrivarono accolti dagli applausi degli astanti che rimasero lì fino a che i due non entrarono nella chiesa. Poi si allontanarono, perché anche se il portone della chiesa rimase aperto furono molto rispettosi del fatto che si trattava comunque di un matrimonio strettamente privato. Mentre André e Sylvie percorsero la navata centrale Gabrielle, Manakel e Rockel. Li seguirono, invisibili, percorsero le navate laterali come a creare un cerchio in cui chiudere l'intera cerimonia, continuarono così per tutta la durata della liturgia, camminavano tra le colonne e tra gli invitati, nessuno li vedeva, nessuno tranne due bambini. Mamma guarda ci sono gli angeli, disse uno guardando Rockel. Sì belli sì, rispose la madre guardando distrattamente le vetrate della chiesa. Una bambina invece fissava Manakel che le sorrise. Piano piano Gabrielle, Manakel e Rockel raggiunsero l'altare e vi si appoggiarono come fossero affacciati ad un balcone ad osservare il sacerdote immerso nel suo ministero e gli sposi che si guardavano sorridendo. Sylvie non era più in preda della frenesia dei preparativi, gli invitati loro invece sì che erano emozionati, Le due damigelle di Silvia si sentivano delle principesse, i testimoni di André, sua cugina Odette si era prenotata come testimone da subito devo essere io. Se scegli qualcun'altra ti tolgo il saluto, Marcella ancora non credeva che tutto quello che stava accadendo potesse essere vero, i genitori di André sempre felici per lui, qualunque cosa facesse, i genitori di Silvia che conoscevano André da sempre, e lo consideravano il loro figlio maschio, la nonna, ops. La duchessa. Bisogna chiamarla così. Di André che aveva l'aria fiera come se avesse vinto una guerra perché finalmente André si stava sposando, finalmente André aveva messo la testa a posto, finalmente André sposava una brava ragazza, e non una di quelle sciacquette con cui spesso si trastulla. Gabriel fece un cenno con il capo a Manakel e Rockel, l'ordine di spostarsi. Si mossero verso i due sposi. Non mancava molto al momento in cui il sacerdote avrebbe fatto la domanda fatidica. Manakel e Rockel strinsero ai suoi insaputa il sacerdote tra loro due. Mentre Gabriel si fermò davanti ad André. André che era molto concentrato con lo sguardo basso, Gabriel lo fissava. Istintivamente André alzò gli occhi davanti a lui. Gabriel con la punta delle dita gli toccò lo sterno. André si guardò il petto e portò la sua mano all'altezza del cuore facendo un piccolissimo passo indietro. Gabriel ritirò la sua mano dal petto di André. André voltò le spalle all'altare e con passo calmo ma risoluto si avviò verso l'uscita. Rimasero tutti attoniti, impietriti, lo guardarono allontanarsi e dissolversi nella luce che arrivava dall'esterno, ammutoliti sconcertati, storditi. Marcel corse verso André. Silvia disorientata si sedette sulla poltroncina, ma senza scomporsi, si accomodò così tranquillamente, come se fosse tutto normale. I suoi testimoni e Odette l'abbracciarono e provarono a confortarla anche se sembrava volessero rassicurare loro stessi. Il silenzio venne sostituito dal brusio dello sconcerto di tutti, e dai brontolii della nonna di André, che a bassa voce ma aspra continuava a dire. Vostro figlio è un mentecatto, vostro figlio è una canaglia, un mascalzone, vostro figlio è un criminale, adesso sì che gli levo tutto. Lo lascio senza un centesimo. Poverina, mormorò Manakel guardando Silvia. Gabriel Manakel e Rockel uscirono dalla chiesa lasciando alle loro spalle la confusione. Ritrovarono la gatta. Abbiamo finito, le disse Rockel. Marcel aveva raggiunto André che zitto camminava verso la macchina. Marcel camminava a fianco a lui, si voltò a guardarlo sperando in una spiegazione. André si voltò verso Marcel ma non disse niente. Arrivarono alla macchina. André salì al posto di guida, Marcel accanto a lui, in silenzio. In silenzio André mise in moto e in silenzio partirono. Tutto il viaggio così, nel mutismo più totale. Ogni tanto Marcel si voltava verso André che rimaneva zitto e attento alla guida. Marcel inviò un messaggio ai loro due amici, Alan e Rar. André ha mollato Silvia sull'altare e se n'è andato. Ha fatto bene, rispose Alan. Eh? Virgola rispose Gerard, e ora? E ora boh punto punto punto stiamo tornando verso Parigi. Ma non parla, non dice una parola. Arrivati a Parigi, Andrea si diresse in banca. Faccio in un attimo, furono le uniche parole di Andrea mentre scendeva dall'auto. Marcelle dovette aspettare un bel po' di più di un attimo, perché Andrea fece delle transazioni, vendite, svuotò il conto e prese tutti i contanti possibili. Tieni, disse a Marcel porgendogli una mazzetta di euro, per il disturbo. Ma sei impazzito? Virgola esclamò stupefatto, sono un sacco di soldi. Non contarli, così sembrano di meno, rispose riprendendo a guidare. Durante la guida chiamò il suo avvocato, mise il viva voce e partì una conversazione su soldi, famiglia, eredità, cessioni, rinunce, legittime, cambi di residenza. Marcel se ne stava con quei soldi in mano e gli occhi puntati sul suo amico inghiottito da discorsi per lui incomprensibili. Per Marcel fu una giornata davvero strana. André parcheggiò l'auto e scendendo velocemente disse. Vado dal notaio e ti riporto a casa. Va bene, rispose Marcel rassegnato. Inviò un nuovo messaggio a Gerard e Alan. Non ci sto capendo niente. Come sta? Chiese Gerard. È andato in banca, ha chiamato l'avvocato e adesso sta dal notaio, ma punto punto punto è più ricco, molto molto più ricco di quanto immaginassi. Non l'avevi capito? Ridacchiò Alan. André tornò si rimise alla guida, senza proferire parola, accompagnò Marcel a casa. Come rimaniamo? Chiese ancora più frastornato Marcel. Ci sentiamo la prossima settimana. Ok, rispose quasi in automatico Marcel chiudendo la portiera della macchina. Andrei fu di parola. La settimana successiva lui, Alan, Rara e Marcel erano di nuovo tutti insieme.